Beh, a me sembra appunto che una delle ragioni di complementarità di questi due modelli è che facendo meditazione io mi accorgo in modo impressionante di come la mente non sta mai ferma e poi ho anche una ragione per cui so che come hai chiamato quegli inquinanti della mente Di nel Sankara. Sanskara saltano fuori, saltano fuori, saltano fuori, eccetera. Ora, ti faccio un piccolo esempio per entrare. Allora, mettiamo che io debba decidere se sostenere l'esame da procuratore oppure no. E effettivamente devo decidere perché se faccio in un modo o nell'altro. Ok, benissimo. Questa potrebbe ancora essere una domanda che io mi pongo che non è proprio nevrotica, perché può essere una cosa utile. Certo. Oppure c'è una persona che è stata sgarbata con me. Sto pensando, ma gli telefono adesso, lo vedo per... Devo prendere una decisione su cosa fare, completare questo. Quindi la mia mente, mettiamo in questo momento qua, ha un problema che non ha ancora risolto, che non ha completato. E quindi se non completo questa gestalt è aperta, la mente tutto sommato continua a girare, perché è come fosse un ufficio in cui le pratiche non sono finite. Non è ancora... È sabato magari, però è Certo. venerdì sera, non si sono finite le pratiche, la mente è finita. Certo. Allora, una delle cose che ho visto che è importante che le persone facciano è completare le gestalt, concludere. Assolutamente, assolutamente. Ecco, per esempio, se non so, ho capito se con una persona effettivamente mi trovo o non mi trovo, è meglio che su questa cosa la completo, perché se no non ne uscirò mai, cioè questo pensiero non mi abbandonerà mai. Allora, ho come l'impressione che se la meditazione mi serve a rendermi conto che il proliferare della mente è senza fine. Mi sembra che sarebbe opportuno distinguere all'interno un proliferare che dipende da cose che sono del tutto irragionevoli, da un proliferare di pensieri che dipendono da che cosa? Dal fatto che il mio comportamento nella vita è di rinviare, procrastinare, non completare, per cui la mente da buon computer dice: ma senti, tu mi hai messo questi dati qua e finché non li completiamo io giro. Va in tilt, certo. Allora, personalmente, per esempio, ho visto varie volte che se dovevo prendere una decisione e non completavo il processo decisorio, beh, dopo un pochino la mente tornava lì. Come, ma non è che io faccio, però come dire, beh, ma lo dobbiamo finire. Allora, mentre la mente s'acquietava, quando io dicevo, allora, che cosa posso fare adesso? Come posso provvedere? Faccio una telefonata, non la faccio, scrivo una lettera, non scrivo una lettera. Quando è completato il processo, la pratica è archiviata, nel senso che può essere messa via e si passa ad altro. A quel punto la Certo. mente tace. Quella lì non la vedrei ancora come una mente nevrotica, ma semplicemente una mente che non viene usata bene. Sì. Che è diverso, no? Cioè è diverso una gamba che ti fa male perché ormai l'hai storta tutta perché hai sempre camminato storto. Un conto è una gamba che ti fa male perché stai camminando male in Male, quel certo. momento, la usi male e quindi mi sembra che sono due Certo. cose molto interessanti da... Allora, Assolutamente. se io nella mia vita, anziché completare le gestalt, le tengo tutte aperte, questo povero inconscio cosa fa, poverino? Certo. Cioè, non fa altro che tirarmi fuori queste nuove cose, queste nuove... Quindi, il discorso, secondo me, che ha fatto Landmark, per me è stato illuminante, il discorso di completare il passato. Certo. Cioè, se io, non, per esempio, con una relazione non ho concluso, non ho completato bene, sant'è, la mia Certo. mente dice, Metti ma... sì, per esempio, io butto il riso, lo butto il riso. Sì, grazie. Per esempio, in meditazione ti viene a galla quella cosa lì, prendi la decisione e dici, vabbè, dopo faccio senza Esatto, telefonata e esatto. poi vado Allora, avanti a la meditare. meditazione, Bravo. Ti ecco, aiuta in questo la meditazione, che in tu quando mediti, proprio quei contenuti che vengono a galla sono quelle cose che devi completare. Tu allora... prendi coscienza, qui c'è un problema che io devo affrontare nella mia vita. Allora, la Questo è un meditazione... aiuto anche in questo In questo senso. senso la meditazione mi mette, ma accidenti, ecco perché sono agitato, c'ho queste cose aperte. Allora mi risveglio e le completo. Se invece io mi risveglio e poi penso di aver sistemato le cose perché ho fatto Eh meditazione, no, no, miglioro, no, miglioro. quella non è È una trappola, cattiva Nicola. modo di Trappola, usarla, allora esatto. diventa una meditazione che serve come psicofarmaco, che mi serve Sì, temporaneamente per e che chissà poi quanto. appunto per tanti è assolutamente vero che diventa una fuga dalla realtà. Come dire, per chi non ha consapevolezza di tutte questi processi che vanno completati, dell'allineamento di cui c'è bisogno nella propria vita, eccetera, eccetera, che cosa succede? Che magari giustifica il suo senso di impotenza, il suo senso di fallimento nella vita, cioè, dicendo, vabbè, io però faccio meditazione, e con questo io cerco un'altra cosa, capisci? E la classica nevrosi mistica, voglio dire, come si ritrova negli ambienti cattolici, tale quale la ritrovi negli ambienti buddisti. Viene utilizzata come un alibi per non confrontarsi con le proprie difficoltà e i propri problemi. È chiaro che a quel punto, a parte il fatto che tanta gente che dice di meditare non medita, sì, sta seduta, sta seduta, sì, sta seduta, ma con la testa viaggia, si fa dei trip incredibili, non ci crede neanche veramente nella meditazione. Magari lì in quel contesto trova un attimo di pace, perché o trova una sua nuova identità, eccetera, ma non sta meditando. Perché non sta praticando la presenza. Sì, certo. Capisci? E praticare la presenza è difficile, soprattutto quando tu lo devi fare per dei giorni di seguito, perché la mente tende a portare allora, via. Vediamo un attimino. La presenza. Se io ho una gestalt aperta, cioè ho un rapporto con, non so, con mio padre che non è completato, per cui una parte di me dice, guarda che non va bene quello che hai fatto. Tu hai maledetto tuo padre, hai fatto questo, non va bene. E appena mi fermo, esce fuori. Allora, la presenza, che vuol dire che sono presente alla situazione? Sono presente alla situazione, ma sono presente anche al fatto di questa cosa, certo, che salta fuori. Certo, no? Certo. Allora, se fuori ci fosse un incendio improvvisamente, la presenza farebbe sì che io mi alzo e vado un po' più là, non brucio vivo, no? Certo. E lo stesso, se c'ho un mi esce fuori una cosa, guarda che tu non hai completato questa cosa, ti sei comportato come una come un disgraziato. Sì, però qui ci può essere una trappola, nel senso che facilmente questo poi diventa a sua volta un alibi che la mente trova per non praticare, no? No, certo. Quando certo, la mente sta praticando, se ne trova mille di cose che deve fare, capisci? Ecco. Allora, non deve diventare anche lì è il punto dove si può inquinare la pratica. Ecco. Mentre tu quando pratichi, anche per esempio nella pratica viene facilmente, per esempio stai facendo un ritiro, no? E non stai facendo solo un quarto d'ora, ma ti viene anche quando fai un quarto d'ora. Sì. Ma mettiamo che stai facendo un ritiro, stai praticando per 3 giorni la presenza. Sì. Sei lì per fare quello. Certo. Tu a un certo punto ti ritrovi invece a metà della seconda seduta che dice, ma io ho questo problema che non l'ho risolto e questo problema lo devo risolvere. Allora adesso dedicherò tutta la giornata a capire come devo fare a risolvere questo problema. Che vuol dire che tu per il resto della giornata, invece di praticare la meditazione, stai a pensare, ma guarda che questo è regolare, stai a pensare a quel problema, a tutto quello che devi fare, perché sì, perché adesso che torno farò questa cosa, poi farò quest'altra, e ti viene anche bene. Perché siccome sei in un contesto calmo, eccetera, la mente è anche molto creativa in questo, quindi può trovare soluzioni che non aveva mai provato a quel problema e che diventano un perfetto alibi per non meditare. Allora, come ci si aggiusta con questo? L'insegnante ti dice, va bene, tu hai preso coscienza che devi trovare una soluzione e in questo per te pensi che sia un momento adatto per completare quella cosa, anche se non altro per capire quello che devi fare, che prima non lo capivi. Eri nella confusione, adesso lo capisci. Allora, tu fai così. Tu, nell'arco della giornata, ti dedichi 3 sedute intere a pensare totalmente a questa cosa e solo a questa cosa, finché non l'hai esaurita. Per 3 sedute dedicherai solo a questo. Tutto il resto del tempo, questa cosa non deve esistere. Probabilmente ti basta anche un terzo di una sedute. Se tu sei ti bastano 5 minuti. Appunto. Quando tu ti decidi che dedicherai tutto il tempo a fare solo quello e nient'altro, dopo 15 minuti al massimo hai già pensato a tutto quello che potevi pensare. Sono tutte balle che ci vuole delle ore per risolvere. Pochi minuti. Pochi minuti. Dopodiché ti prendi l'impegno che appena avrai finito il ritiro, la prima cosa che farai è andare là e farai quella cosa e completerai quella che è stata. Allora è così che si integra. Allora, sì, così dove la così. Meditazione diventa un modo per avere più chiarezza e per capire in modo meno inquinato da tutte le nevrosi proprie, paure, ansie, fobie, quello che devi fare per risolvere quel problema. E quando mediti, questa chiarezza ti viene come mai, voglio dire. Nello stesso tempo, una volta che questa chiarezza ti è venuta, non inquini la tua pratica e trovi il tempo per l'uno e per l'altro, dando a ognuno il suo praticamente, a ognuno il suo. Sì, così mi sembra molto convincente. La sento molto convincente perché se dedico, siccome ho questo problema mi devo dedicare a questo, ma quello basta pochi minuti, qui se è di più vuol dire che è un alibi. Sicuro. Dall'altra, se io, avendo un problema non risolto, dico no, non me ne occupo perché adesso devo fare la meditazione, la mente ha tutta la possibilità di tornare sempre su, tornare sempre su, tornare sempre su. A questi punti, può diventare, voglio dire, può diventare sbilanciato in un altro modo, nel senso che io fuggo dalla realtà, dalla realtà dei problemi, cioè vuol dire che nella vita mi comporto male, non mi comporto secondo dei determinati principi e dopo la mia mente me li fa tirare fuori. Comunque io non ho capito qual è la prescrizione che viene data di fare tre meditazioni. Tre è un numero simbolico, sì. Nel senso che tu stai meditando, vuol dire stai praticando la consapevolezza, sì. Consapevolezza vuol dire che tu cerchi in quel momento, è una consapevolezza focalizzata, di stare nella presenza, magari sensazioni del corpo, respiro, quello che è, sì. No? In quel momento ti accorgi che non ci riesci, la mente parte e parte sempre in una direzione, sì. No? E allora a un certo punto tu ti fermi, si chiama anche labeling il processo, metto un'etichetta, sì. Problema mia sorella, non l'ho risolto questo problema, mi torna a galla durante la pratica. Benissimo, allora che cosa c'è da pensare a questa cosa? C'è qualcosa da fare o c'è qualcosa che devo capire su questa cosa? Voglio dedicare una seduta intera a riflettere su questa cosa per capire cosa voglio fare? Ok, ci dedico una seduta intera. Dopodiché prendo delle decisioni, se ci sono delle decisioni da prendere, che metterò in atto alla fine del ritiro o quando appena mi sarà possibile. Nello stesso tempo però, se durante il ritiro quel problema continua a raffiorarmi alla mente, io a questo punto non è che continuo a stare dietro. Resistenza, ho preso atto di quel problema, l'ho riconosciuto, so che c'è quella cosa, basta, io pratico la presenza, capisci? Sì. Però devo aver imparato a completare la cosa, perché se io la completo vuol dire che io faccio tutto quello che oggi posso fare per quel problema. Per esempio faccio un elenco di cose che farò. Dopodiché che ho fatto l'elenco e l'ho scritto, basta, ho finito. Basta, lasci stare perché la mente è abilissima, se farete un ritiro ve ne rendete conto, nel trovarsi infiniti alibi per continuare a pensare tutto il tempo alle sue robe, per cui ti lascia spazio pochissimo, e il segreto è di non abbattersi e di essere grati ogni volta che te ne accorgi e che ti ridai uno spazio, fosse anche di pochi secondi. Perché poi quello spazio devi avere fiducia che piano piano, più tu lo coltivi, più si allargherà. E più il movimento si ridurrà, e più tu entrerai in stati di silenzio, e più il pensiero si farà chiaro, la discriminazione si farà chiara, e quindi, dopodiché, se non c'è qualcosa che tu non vuoi vedere, che stai fuggendo, ma una cosa, capisce, un ragazzino che si mette a meditare, o un adulto che non ha nessuna consapevolezza della realtà psicologica, cioè una cosa è una persona che conosce bene... qual è la realtà della mente, come funziona, eccetera, eccetera. Allora vedrai che tutti questi problemi a te non ti riguardano, sono problemi che riguardano il principiante che si avvicina magari al buddismo per suoi motivi e che non ha mai fatto un lavoro su di sé, che non sa cosa deve fare, ma non sono problemi che possono riguardare un esperto di come lavorare con la mente. Per esempio una persona che non ha neanche l'idea del concetto del causa-effetto. Cioè, ma mia suocera mi ha fatto così, si mette in meditazione. Come fa? C'è gente che... Io ricordo una volta un ritiro fatto con Barbara. E parlo di Barbara, che non era una inesperta, aveva meditato, aveva fatto pratica, faceva i corsi di TVL, eccetera. Questo è stato l'ultimo ritiro che ho fatto con Barbara, dopo che ci siamo lasciati, voglio dire, quindi stavamo già insieme da un anno. Bene, alla fine del ritiro... mi ha detto delle cose che mi ha fatto, e poi un ritiro con Sumedo era, e io avevo fatto l'impossibile per riuscire a fare in modo che lei potesse venire, eccetera. Non ricordo quanto è durato, 4-5 giorni. Alla fine del ritiro mi ha detto delle cose che adesso non ricordo neanche quali, ma che mi hanno fatto capire che lei per tutto il tempo è stata con la testa a pensare a quelle cose lì. E ho detto, oddio Barbara, ma che hai fatto in tutto il ritiro? Hai meditato? Dove stai? Adesso finisci il ritiro. Io sono in uno stato pieno di gioia, sono in uno stato bellissimo. E tu mi tiri fuori tutta questa robaccia che non c'entra niente. Voglio dire, questa cosa adesso, che non significa niente. Ma cosa hai coltivato durante il ritiro invece di praticare? Tante volte io adesso dico, Barbara, non per criminalizzare te, perché può succedere a chiunque, può succedere anche a me, eccetera. Ma perché il potere della mente di a volte di utilizzare quello spazio per inquinarti ancora di più di quello che fa normalmente, perché ha tutto il tempo di farlo a fondo. Non si deve concentrare su nient'altro, quindi finalmente la sua sfogarsi. Ha uno spazio immenso, tutto a sua disposizione. E c'è gente che diventa matta facendo di certo, c'è gente che diventa forme ossessive. Esce fuori, capisci? Certo, perché questo. Sì, mi sembra che sia molto chiaro tutto questo, anche